2024 2024 di Enrico Pagliarini. Siamo di nuovo in onda anche questa settimana, pieno luglio, 16 luglio 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile attraverso il sistema podcast di Radio 24, molto semplice. Andate su www.radio24.it e poi scegliete la pagina dedicata ai podcast. Il primo programma in alto è 2024@radio24.it. Oggi parliamo di biscotti. Questa è la traduzione letterale di cookies, termine inglese che definisce quegli strumenti che vengono usati su internet per conoscere le abitudini, le opinioni e i desideri di chi naviga sui siti web. Quindi non parliamo naturalmente dei biscotti veri e propri, ma così vengono definiti questi file di testo che servono fondamentalmente per erogare, prima di tutto potremmo dire la pubblicità, ma il business che punta a conoscere le persone sempre meglio su internet sta diventando così sofisticato che potremmo dire sta andando oltre la pubblicità. Della cosa tra l'altro si è occupata recentemente anche una direttiva europea che sta per essere recepita in Italia, anche se sui tempi di recepimento non siamo proprio velocissimi. Ma che cosa sono i cookies? Perché è importante saperlo. Sembra un tema molto complicato, molto difficile. Invece sentirete tra poco dalle parole del nostro ospite che la cosa è molto semplice e è bene sapere come funziona questo sistema. Vi propongo una chiacchierata che ho fatto pochi giorni fa con Massimo Fubini, che è fondatore e amministratore delegato di Contact Lab. Non sono dei programmini che si installano innanzitutto, sono tecnicamente dei piccoli file di testo che contengono delle informazioni abbastanza basilari. Normalmente sono le informazioni di chi ci ha mandato questo biscotto, quindi il mittente, delle informazioni di durata del cookie stesso e poi tipicamente c'è una coppia di informazioni che potrebbe essere ad esempio una variabile il suo contenuto. Per modo di dire, non so, la grandezza dello schermo che stiamo utilizzando uguale 1024. Questa informazione qui più alcune altre informazioni che non sono così rilevanti sono l'entità del cookie. Quindi quando noi con un programma di navigazione che sia Firefox, Internet Explorer, Chrome, giusto per citare i più diffusi, oppure Safari per chi utilizza Mac, andiamo con un programma di questo tipo su un sito internet, i server di questo sito internet ci inviano, e noi solitamente non ce ne accorgiamo, questo programmino che si installa dove? Cioè programmino, abbiamo detto che è un file di testo che si infila dove? Allora, nel momento in cui noi navighiamo, i siti dai quali navighiamo possono mandarci questo file di testo. La particolarità del cookie è proprio quella di una relazione, uno scambio di informazioni tra il server sul quale si sta navigando e il client o il browser dell'utente. Quindi nel momento in cui io navigo su un sito, questo sito può rilasciarmi dei cookie. E l'altro elemento è il fatto che il client, il browser, rimanda indietro questo cookie che è stato scritto dal server al server stesso. Quindi per provare a spiegare un pochettino meglio, se io navigo sul sito del Sole 24 Ore, il server del Sole 24 Ore può rilasciarmi uno o più cookie contenenti le informazioni che lui vuole e nel momento in cui io ritorno sul sito del Sole 24 Ore, il mio browser rimanderà al server del Sole 24 Ore solo ed esclusivamente i cookie che lui mi ha rilasciato. Specifichiamo, nulla di illegale, giusto? Assolutamente no, sono delle informazioni e a cosa possono servire queste informazioni? Sono tipicamente delle cose che ci migliorano la vita, ci semplificano la vita nella navigazione. Ad esempio un cookie può ricordare una preferenza dell'utente, quindi il fatto che un utente stia navigando su un sito in una determinata lingua. Quindi io magari entro su un sito che ha più lingue, scelgo la lingua italiana, la volta successiva che rientro il mio browser rimanda al server il fatto che abbiamo scelto la lingua italiana e quindi il server dall'altra parte mi fa navigare direttamente in italiano. Questo è un esempio, ma i cookie possono servire anche nell'esperienza dello shopping online per ricordare i prodotti all'interno di un carrello, quindi nel momento in cui io passo da una pagina verso un'altra pagina, all'interno del cookie vengono registrate le informazioni dei prodotti che ho inserito nel carrello. Oppure possono servire per delle funzioni cosiddette di autologin, quindi io entro su un sito che magari ha una parte con una registrazione, Facebook ad esempio o tanti altri, e chiedo al sito, al server, di voler restare loggato, quindi non avere la necessità tutte le volte di reinserire le mie credenziali all'interno. In questo caso il server dall'altra parte mi lascia un cookie specifico solo per me, dove ci saranno messe dentro le credenziali non in chiaro di autenticazione, in modo tale che la volta successiva che entro il server riconosce che c'è già un cookie, quindi io ci sono già stato, all'interno di quel cookie ci sono le informazioni che servono per l'autenticazione e io entro direttamente autenticato. Quindi nulla di illegale, assolutamente, tipicamente delle funzioni che possono avere un risultato positivo nell'esperienza di navigazione. Quindi fin qua tutto bello, positivo, anzi in alcuni casi molto comodo. In alcune occasioni dobbiamo preoccuparci? Ma allora, io direi che il termine preoccuparsi è forse un po' esagerato. Tuttavia bisogna stare attenti, bisogna sapere che cosa si riceve dalla rete e che cosa si dà alla rete sostanzialmente. E qui bisogna fare una piccola distinzione nei cookie, ma è una distinzione molto molto importante. È la distinzione tra i cookie cosiddetti first party e i cookie third party, dall'inglese ovviamente cookie che derivano dal sito sul quale stiamo navigando, e cookie che sono erogati da terze parti, appunto. Che cosa significa? Quando noi navighiamo all'interno di una pagina, ad esempio andiamo su un qualunque sito, Libero, Virgilio, Il Sole, Corriere, Repubblica, quello che vogliamo, noi riteniamo che le informazioni arrivino tutte da quel sito lì. In realtà non è così. Ovvero, la pagina che noi stiamo caricando arriva da quel sito, ma tutta una serie di informazioni, immagini, contenuti video, contenuti testuali inclusi dentro la pagina stessa possono essere richiamati da server di terze parti. Tipicamente la pubblicità. Tipicamente la pubblicità, questo è un esempio assolutamente tipico, ma anche i video. Quindi quando io ho una mia home page personale e carico un video di YouTube o di un qualunque altro sistema di video, ecco che chi sta scaricando dal mio sito scarica alcune informazioni da me, ma poi il mio sito sta dicendo al browser: vai su YouTube oppure vai sul server che eroga la pubblicità e prendi questi determinati contenuti. Quindi nel momento in cui noi digitiamo un indirizzo e iniziamo a navigare, è possibile che questi contenuti arrivino da 2, 3, 5, 10, 20 siti differenti. Ecco che questi 20 siti possono rilasciarci un cookie. Quindi quando navighiamo all'interno di un sito ci può essere un solo cookie first party, quindi non è che ci deve essere, ci può essere un cookie first party, ci possono essere tanti cookie third party, terze parti, e questo è un elemento molto molto importante, perché la gente non si rende conto di chi gli sta rilasciando dei cookie. Lo può vedere, ma è tipicamente un'azione, non dico da smanettoni perché è molto semplice, basta andare nelle preferenze del proprio browser e vederli, ma non è un qualche cosa che viene normalmente fatto. In questa maniera, durante la navigazione si accumulano tantissimi cookie dentro i quali c'è un po' della storia della nostra navigazione, e questa storia è, ahimè o per fortuna, una storia attiva, perché quando noi continuiamo a navigare, tutte le qualvolte riscarichiamo, rientriamo in contatto con uno di questi server, gli ridiamo un cookie che lui stesso magari ci aveva dato precedentemente. E quindi raccontiamo dove siamo stati, quali siti internet abbiamo visitato, eccetera eccetera. Abbiamo detto che i cookie di prima parte, quindi di prima fonte, servono, come tu ci hai spiegato, ad esempio per automaticamente scegliere nuovamente una preferenza, eccetera, eccetera. In questo caso, i cookie di terze parti a che cosa servono principalmente? I cookie di terze parti principalmente e storicamente nascono in ambito pubblicitario per vedere se una persona è già stata esposta a una pubblicità oppure no. Facciamo un esempio. Ipotizziamo che ci siano tre siti di news e questi tre siti di news si fanno erogare la pubblicità da un fornitore tecnico unico per tutti quanti. È un caso veramente molto molto tipico, perché i fornitori tecnici che erogano la pubblicità sono molto pochi nel mondo. Ecco che io posso arrivare sul sito del primo quotidiano, periodico, radio, televisione e così via, vengo esposto a determinate pubblicità. In quel caso io sto ricevendo e ridando indietro il cookie non solo al fornitore delle news, ma anche al fornitore tecnico dell'advertising. Nel momento in cui io navigo sul secondo sito, in questo caso qui il secondo sito rilascerà il suo cookie, ma in quell'istante il fornitore tecnico di pubblicità, questa specie di entità tra virgolette super partes, vedrà che io ho già navigato dall'altra parte e magari vedrà anche che ho visto una specifica pubblicità e quindi potrà decidere se non farmi vedere la stessa pubblicità oppure se farmela vedere. Questo in funzione come dire, della politica di chi fa l'investimento pubblicitario. Quindi tipicamente nascono con delle funzioni di tracking per migliorare o per assecondare meglio i desideri di chi vuole fare delle pianificazioni pubblicitarie. Questo è uno dei motivi per cui si dice che la pubblicità su internet è molto più, non so se usare la parola efficace, comunque la si può controllare meglio rispetto a una pubblicità che magari io metto per strada con un cartellone pubblicitario e non so poi chi la vedrà. Assolutamente sì, non solo la si può controllare meglio, ma la si può erogare meglio. E qui all'interno c'è un fenomeno abbastanza importante anche da un punto di vista economico che si chiama retargeting, ovvero quella talvolta piacevole, talvolta spiacevole sensazione di un grande fratello che ci segue e che ci dà delle pubblicità, guarda caso, proprio su una cosa così specifica che come fanno a saperlo? Questo è il retargeting, quindi ci sono dei network che appunto erogano pubblicità su più siti e si rendono conto se tu hai visitato o hai richiesto un determinato contenuto su un sito e poi rivendono pubblicità esattamente su quello specifico contenuto parola chiave da altre parti. E quindi magari uno sta cercando dei voli per una specifica località e poi va su un sito completamente diverso, che non c'entra niente sui voli, che magari di una nazione diversa, che non fa parte di uno stesso network e così via, e pof, gli compare una pubblicità non solo di voli, ma proprio su quella tratta che lui ha richiesto, o cose simili. Ecco, questa tecnica che si chiama appunto retargeting, che è il cercare di seguire le preferenze che l'utente ha dimostrato avere navigando in rete su altri siti, è un fenomeno degli ultimi anni che sta avendo un particolare successo. Adesso per noi c'è una breve pausa, ma abbiamo una domanda e arriviamo ad un punto cruciale. Anche Facebook utilizza i cookies e che cosa se ne fa dei cookies? Come vengono utilizzati? 2024. Siete all'ascolto di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini 2024, oltre che un indirizzo di posta elettronica molto semplice 2024@radio24.it, anche una pagina su Facebook, ci trovate molto facilmente cercando appunto 2024. Stiamo parlando di cookies, fondamentalmente stiamo parlando di privacy o, se volete, di privacy, come si dice in altro modo, e di questi file che ci vengono inviati dai siti internet che noi visitiamo o dai network pubblicitari, e finché questi file di testo che raccolgono alcune delle informazioni su di noi, sulle nostre abitudini, sono legati ad un profilo anonimo, quindi fondamentalmente ad un computer, poi certo dietro a un computer ci sono le persone, ma finché tutto ciò avviene più o meno nell'anonimato, poco male. Cosa cambia e come cambiano le cose se associato a questo file di testo, associato a questo profilo, c'è una identità vera e propria? E questa è la seconda parte di 2024 su questo tema che stiamo discutendo con Massimo Fubini, che è fondatore e amministratore delegato di Contact Lab, che oltre ad occuparsi di internet per lavoro, per mestiere, ha sempre avuto un'attenzione particolare alle conseguenze che molti dei fenomeni della rete hanno sulla nostra vita e sulla nostra società. Un'attenzione che io apprezzo molto e che, se fate caso, è un denominatore comune di molti degli ospiti di 2024, perché sono molte le persone che conoscono tecnicamente, anche in maniera molto approfondita, tanti fenomeni, ma la cosa più importante che abbiamo sempre cercato di fare è fornirvi una chiave di lettura, un collegamento, una serie di collegamenti tra i fenomeni. Allora, a questo punto parliamo di Facebook. Anche Facebook utilizza i cookies, e che cosa se ne fa di questi cookies, di queste informazioni? Qui è una, è il punto cruciale, è come dire il, non posso dire la nota dolente, perché non è una nota dolente, ma è il punto di maggior attenzione. Ricordiamo che i cookie sono di per sé anonimi, quindi il fatto che ci sia qualcuno che segue la mia navigazione e sa che ho visto una determinata pubblicità su un sito e sa che ho visto una determinata pagina con un'altra pubblicità su un altro sito ancora e così via, magari può anche non far piacere, però ci dobbiamo ricordare che nessuno sa chi è questa persona. È un cookie, quindi nel momento in cui quel browser, quindi non quella persona, quel browser si ripresenta su uno di questi siti, può essere riconosciuto, ma non riconosciuto nome, cognome, indirizzo, email, telefono, riconosciuto come un computer dal quale c'è stata una determinata navigazione. Quindi da un punto di vista to cure della privacy, questo non è un problema particolare. Di certo bisogna guardare un pochettino più in là e bisogna innanzitutto pensare che ci sono tutta una serie di dispositivi mobili dai quali si naviga, che sono abbastanza personali, in questo caso gli smartphone, e questo, come dire, già ci rende un pochettino più identificabili come approccio. Ma il vero punto è quello che hai detto tu, ovvero ci sono una serie di siti per i quali è molto importante loggarsi, perché se uno non si logga ovviamente non usufruisce del contenuto del sito, e questi stessi siti spesso e volentieri detengono informazioni personali, non perché siano, come dire, la CIA o il Mossad, ma perché noi stessi gli diamo questo tipo di informazioni. Facebook è l'esempio più eclatante, quindi noi ci registriamo su Facebook e mettiamo un sacco di informazioni differenti, e fino a qui niente di male, è un rapporto tra noi e Facebook. Il problema nasce quando noi iniziamo a navigare su tutta una serie di altri siti, e magari questi siti includono delle funzionalità di Facebook, quindi delle funzionalità come il tasto mi piace, oppure la possibilità di loggarsi attraverso Facebook. Ecco, in parole povere, quello che succede è che, facciamo proprio un esempio tipico, io vado a vedere la mia pagina di Facebook per vedere che cosa fanno i miei amici, che cosa hanno detto, cosa non hanno detto, poi esco, o posso anche non uscire perché la maggior parte degli utenti non fa mai un logout, ma questo è in influenza ai nostri fini, inizio a navigare in giro e magari vado a finire su un sito di e-commerce o su un sito del meteo o su un sito dei viaggi che ha al suo interno il I like it, cioè mi piace di Facebook. Ecco, quel contenuto lì, nella stragrande maggioranza dei casi, viene erogato da Facebook stesso, quindi non è un contenuto del sito stesso, ma viene erogato da Facebook. E in questo caso Facebook può lasciarci un cookie e può leggere i cookie che lui ha precedentemente lasciato. Questo che cosa significa? Che se voi siete degli utenti di Facebook e avete il vostro cookie di Facebook, ovunque navighiate, ovviamente in siti che hanno dei contenuti di Facebook, ecco, voi state dando a Facebook tutte le vostre informazioni di navigazione. E questo è un qualche cosa che bisogna sapere. Non è che sia un male, secondo me non è un particolare bene, come dire, sono degli interessi molto molto molto importanti che ci sono dietro, legati alla conoscenza delle persone, quindi poi alla possibilità di erogare dei contenuti personalizzati e quindi di far valere di più la pubblicità, eccetera eccetera eccetera. ci si può, tra virgolette, difendere. A me non piace dire difendere perché sembra che sia un attacco. Diciamo che volendo si può evitare che queste informazioni vadano a Facebook così come vadano agli altri. Allora diamo due o tre consigli per, ad esempio, io ho detto al mio browser, io uso Firefox e ho detto, caro Firefox, quando ti chiudo alla fine della giornata oppure a metà della giornata, voglio che tu cancelli tutti i cookies. Questo vuol dire che il giorno dopo o il pomeriggio, quando io torno a utilizzare quel programma non restituisce una serie di informazioni a questi siti, a questi network di siti. Questa è sicuramente una soluzione. Non tutti i browser hanno questa funzionalità di cancellare tutti i cookie all'uscita. È una soluzione abbastanza drastica. A me personalmente piace come soluzione. È ovvio che così facendo si perdono anche quelle informazioni utili che dicevamo prima. Quindi quando io ritorno su un sito che aveva N lingue, lui mi riproporrà le N lingue, non mi farà rientrare col mio profilo specifico. Sulla parte dell'e-commerce non è così un problema, perché è difficile che io inizi a riempire un carrello oggi e lo completi domani. Quindi il fatto di cancellare tutti questi cookie all'uscita è, come dire, una bella soluzione per non dare informazioni in giro. Ci sono altre soluzioni un pochettino più leggere che però possono essere utili. La maggior parte dei browser, anche quelli che non hanno la funzione di cancellare i cookie all'uscita, hanno tipicamente la possibilità di dire voglio accettare solo i cookie first party o voglio accettare tutti i cookie, oppure in altri termini non mandare informazioni a siti terze parti. E alcuni lo traducono in una maniera, alcuni lo traducono in un'altra. Ecco, un settings, quindi un'impostazione che io consiglio a tutti quanti di fare, è quella di accettare solo i cookie first party. È come quando ci fanno compilare i moduli per la privacy, ad un certo punto c'è, vuoi che queste informazioni vadano a finire a chi si occupa di marketing, pubblicità, e magari quella è una casella che noi non barriamo. Esattamente, il paragone è assolutamente simile con l'aggravante, tra virgolette, nel mondo digitale, che mentre un modulo elettronico un modulo cartaceo ha alcune informazioni e quelle sono, punto. Quindi se io dico che può andare anche a terzi, sono esattamente quelle. Nel caso dei cookie sono delle informazioni che cambiano ogni momento sulla base della mia navigazione, quindi non è un'azione che faccio una tantum e poi mi sono dimenticato di vietare la diffusione, o meglio, secondo la legge dice, ho dato l'autorizzazione anche a diffondere un dato che io in realtà non volevo diffondere, ma è un'erogazione, un'emorragia continua di informazioni. Quindi decidendo di non accettare i cookie terze parti, l'esperienza di navigazione rimane sostanzialmente simile o non si hanno praticamente differenze, e si tende un pochettino di più a proteggere il profilo anonimo che uno ha, o nel caso di Facebook un profilo non proprio anonimo. Bene, grazie a Massimo Fubini. Grazie a tutti voi, è un argomento un po' ostico, spero che sia stato compreso. Grazie. Beh, a me personalmente è piaciuta molto questa chiacchierata, ve l'ho proposta per intero. Questo è 2024, terminiamo qui questa puntata a metà del mese di luglio nella nostra versione estiva. Torniamo anche la prossima settimana. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie per la vostra attenzione, per il vostro ascolto. Non dimenticate la versione podcast, il file MP3 della nostra trasmissione è disponibile su internet nella sezione appunto podcast su www.radio24.it. Fateci sapere le vostre opinioni via Facebook nella nostra pagina oppure via posta elettronica 2024@radio24.it. Appuntamento alla prossima settimana. 2024.